Ore 11:10, prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout con qualche minuto di ritardo. Torna in onda Parole Ribelli, la trasmissione settimanale a cura del collettivo universitario autonomo. Un buongiorno a tutti e tutte voi che siete in ascolto da Francesca, al momento da sola qui negli studi di Via Cecchi a tenervi compagnia come sempre fino alle 12:45 circa. Vi ricordo come sempre i contatti per scrivere a Radio Blackout nel corso delle trasmissioni. Per il telefono fisso potete chiamare lo 011-249-5669, mentre per gli sms il numero a cui scrivere è 346-667-3263. Vi ricordo che come sempre Radio Blackout potete ascoltarla non solo sulle sue libere frequenze, sui 105.250, ma anche in streaming sul sito radioblackout.org e che per quanto riguarda Parole Ribelli trovate tutti i podcast settimanali sul nostro blog qua-torino.blogspot.it. Adesso, prima di iniziare, vi lascio ancora un po' di musica, poi vado a presentarvi brevemente la puntata di quest'oggi. Buon ascolto. Non mi avrete mai. sa su chi sei. Vuol vedere solo gli zeri, i numeri sull'airplay. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, denti stretti per noi. Penso che questa situazione attuale non si può capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che ha il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un poco brucia perdono, gioco la merdina dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che entra dentro le soglie. Una guida con sé, mezzo stemma fai re, scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto esso in un testo, chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai letto. Allora, 11 e 17 siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Ne approfitto per mandare un saluto alla cara Eugenia, sempre fedele ascoltatrice della trasmissione, che ci ha scritto qui al 346-667-3263. E niente, adesso vado a presentarvi brevemente la puntata di oggi. Inizieremo con un po' di rassegna stampa sulle vicende dell'università e dei suoi dintorni, non solo qua a livello locale ma anche a livello nazionale, guardando un po' a quello che succederà nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece le dirette, ci metteremo in contatto con uno studente del collettivo Studenti Autoorganizzati, che è tornato da poco dall'ultima assemblea nazionale di StudAut, la rete nazionale degli studenti medi, che si è riunita appunto a Bologna nell'ultimo fine settimana, che oltre insomma a fare un po' di valutazioni sull'autunno passato, ha stilato anche le linee per i prossimi mesi per quanto riguarda il boicottaggio che viene fatto ormai da alcuni anni delle prove Invalsi, e non solo. Quindi ci faremo raccontare un po' meglio com'è andata, e andremo poi anche a dare qualche aggiornamento su Daniele, il nostro compagno fermato, poi arrestato durante il corteo di sabato scorso contro la Lega Nord e contro Salvini. Durante l'ultima puntata ci eravamo lasciato insomma in attesa di buone notizie sulla sua situazione. Si trovava ancora rinchiuso al carcere delle Vallette in attesa appunto dell'udienza di convalida con il GIP e con il pubblico ministero, che hanno poi deciso insomma il GIP ha poi deciso di scarcerarlo per mandarlo agli arresti domiciliari. Insomma, una libertà sicuramente ancora molto parziale, ma ci fa sicuramente più piacere saperlo a casa e poterlo andare a trovare che non in una cella delle Vallette. Quindi insomma un primo passo verso la libertà, che speriamo che al più presto torni ad essere completa. E niente, vi farò sentire una breve intervista che è stata realizzata nei giorni successivi al suo rilascio, in cui ha raccontato un po' la sua esperienza, anche perché si trovava in piazza quel giorno e perché era importante farlo nonostante tutto. E questo è più o meno quanto. Sono già le 11:19, quindi io vi lascio ancora a una breve pausa musicale, poi iniziamo con la puntata. You did what you had to do, and you won the game. Put ourselves in position to continue to fight. One, two, three, yeah! Let's go! Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what side of the meat did you want? What team are you for? Give it to me, and I'ma score. Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what side of the meat did you want? What team are you for? I'm suited up, got on my uniform. Stretch so my muscles stay warm on the battlefield. This is the test of your will and your skill. Where the hills and the drills, that bumper still pays off. It's real out here, no days off. I'd rather give up my life than take a loss. Damn right, pay the cost to be the boss. What can I do to get my point across the goal line? Go hard the whole time. The official blowing the whistle is blind. You got the ball in your court, you gotta shoot for the net. You gotta take your respect. When you under the heat, you in the O with the D. You would never believe what it takes to get free. Nah, nah, nah, who's your enemy? Nah, nah, nah, who's your enemy? Let's go. Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what's out of the beat? What you want? What team are you for? give it to me and I'ma score. Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what's out of the beat that you want? What team are you for? Give it to me, I'ma score. The art of war, more than I've had it for. Who's your competitor? This is more than a sport. This is who you are at your core. A warrior, losing, destitution, winning is euphoria. Hail Mary, overtime, sudden death, field goal. The running back, don't stop till he find a hole. It's 40 love, game, set, match, end. Second round, TKO, the champion. Because the people screaming, saying they want the cup. Practice, make perfect, warning, it ain't enough. Separate the rider from the punks. Clash to the lane, brown house, comma, home, dunk. You with the heat, you want the O with the D. You would never believe, but it didn't get free. Nah, nah, nah, who's your enemy? Nah, nah, nah, who's your enemy? Let's go. Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what's out of the beat that you want? What team are you for? Give it to me and I'ma score. Offense, defense, what's your weakness? Run the sequence, what's out of the beat that you want? What team are you for? Give it to me, I'ma score. We are champions. What's your weakness? Come on. Run the sequence. What's out of the beat that you want? What team are you for? Give it to me and I'ma score. Offense, defense. What's your weakness? Run the sequence. What's out of the beat that you want? What team are you for? Come on. Give it to me. I'ma score. Very proud of you guys. Great job, guys! Gente de Borgata, Don Chaos, Manifesto 2012. So attimi, zio, mettiti a cuore. Dai e forte. E qua la gente ce lo sa. Au. So attimi, so attimi, so attimi, so battiti, tu non pensarci, non fa troppi calcoli. So attimi, so battiti, tu non fermarti, ma corri a cercarteli. Alzati e sbattiti, se non combatti qui, non stringi niente, sono tutti passati qui. Non te la fai, basti, non glielo dite, sì, fottitene, fottili. Fottili e non fotterti, tirate su e muoviti, vogliono confonderti. Sei te contro loro, sei te con i tuoi battiti. Non perderli, non perderti. Sta vita è una lotta, è un piatto che scotta, è un patto col diavolo all'inferno che aspetta. Che il tempo ti fotta e l'odio ti abbatta. Un cuore muore quando prende l'amore e lo sfratta. La vita perde valore quando non dà più calore, ma lascia rancore e porta sangue e dolore. Io le lascio agli altri le belle parole e cerco un raggio di sole nell'odierno torpore. Terra terra, sì, come più di prima in questa merda, sì, è facile perdere lo stima. È una guerra continua per chi a sto mondo se sbatte ma non si allinea. Au, e lo so, io non c'ho i tempi discografici, c'ho tanto che so ancora i miei dati anagrafici. Gioie passeggere dentro attimi sporadici, paranoie vere dentro vite complicate. Sta senti qua la vita costa cara, una risata è rara, più dell'acqua nel Sahara. La sorte non regala la fortuna, consuma le mie forze a forza di da calci a forte. Fuma tutto quanto, anni e grammi che fumi, vivo di frammenti che vanno in frantumi. Tempi duri tra cumuli di macerie, grandi personaggi tra racconti di miserie. L'odio nelle arterie, in circolo perenne, un circo degli orrori nei dolori di un trentenne. Avvizza le antenne, te fa scappa niente. Mettiti a cuore se l'attimo è fuggente. So attimi, so battiti, tu non pensarci, non fa troppi calcoli. So attimi, so battiti, tu non fermarti, ma corri a cercarteli. Alzati e sbattiti, se non combatti qui, non stringi niente, sono tutti passati qui. Non te la fai, bastino, glielo dite, sì, fottitene, fottiti. Basta un momento, cambia il vento, e il sentimento che provavi cambia come cambiano i pensieri a dentro. Senti che un attimo può cambiare tutte le certezze che possiedi, tra un secondo possono sembrare in dubbio. Il punto è farsi trova pronti senza credere a molti. Non te ne accorgi, ma se l'ore per loro non conti. Basta che compri, basta che scordi, e tutto si riduce a quanti soldi svolti. Tutto quanto cade a pezzi se ci pensi qua. I bei momenti sono latenti, non li fa scappa. Io colleziono sti frammenti ed i commenti non li sento, seguo quello che c'ho dentro e lascio tutto il resto. testo. Vivo per un sorriso, per il respiro sul cuscino ogni mattino della donna che mi sta vicino. So sensazioni che motivano ste vite, so attimi, so battiti e so loro che me fanno perché vivere. Un secondo di emozione poi ti stona, poi ti ridimensiona ed un secondo dopo sai che ti abbandona. Un secondo funziona, funziona a meraviglia, il secondo dopo suona come carne in bottiglia. Un secondo è guerriglia, un secondo peggiora e il mondo mi consiglia, aspetta un attimo ancora, un attimo ancora, un attimo ancora. Un bacio alla bottiglia e tutto quanto migliora. E se per ora quella porta ve la chiudo, qua l'amore ha solo il cuore, se la mente la illudo e vale tutto. Dentro la fossa dei serpenti, quando il pasto è crudo, ora che affondi i denti, ti senti? Sono arrivati all'improvviso e quelli più sorridenti hanno l'odio sopra il sorriso. E attenti, se hanno deciso il risultato, la vita in frammenti e ognuno è affilato. So atti, non atti, non battiti, tu non fermarti ma corri a cercarteli. Alzati e battiti, se non combatti qui non stringi niente, so tutti passati qui. Non te la fai bassi, non glielo dite sì, fottitene, fottili. 105.250, iniziamo allora con questa puntata di Parole Ribelli. Come vi preannunciavo in apertura, iniziamo con un po' di rassegna stampa, lo facciamo con un articolo comparso sull'Huffington Post negli ultimi giorni, in particolare il 4 di aprile, a firma di Pietro Salvatori, che titola «La buona università a settembre, Renzi lancia la riforma degli Atenei, meno burocrazia e un Jobs Act universitario per stabilizzare i precari». La notizia, appunto, a che io abbia avuto modo di vedere per ora è uscita solo sull'Huffington Post, che insomma rivela di aver avuto informatori di altissimo livello da parte del Ministero dell'Istruzione. Vabbè, insomma, il tenore dell'articolo è abbastanza pessimo peraltro, ma vado a commentarlo brevemente. Appunto, la notizia è quella che dopo la riforma della buona scuola che Renzi ha lanciato nei mesi scorsi e che è in via di approvazione in queste settimane, contro cui gli studenti delle scuole superiori si sono mobilitati per tutto l'autunno, per il prossimo anno potrebbe arrivare la buona università. Si tratta, scrive l'Huffington Post, di una casa il cui progetto finale è ancora da disegnare, ma il timing è in qualche modo obbligato. Da qui all'autunno gli uffici del Ministero dell'Istruzione saranno infatti impegnati a mandare a pieno regime l'altra riforma, quella appunto delle scuole superiori, perfettamente definita sulla carta, scrivono, ma la cui applicazione sarà assai laboriosa. Solo a quel punto si potrà iniziare a lavorare a pieno regime per riformare anche gli Atenei. La parte insomma interessante è che il processo con cui sembra voler essere annunciata questa riforma ricalca perfettamente quello della buona scuola, quindi il governo Renzi fa sapere che la discussione vera e propria verrà preceduta da una serie di mesi di confronto con le autorità accademiche sullo stile appunto di quelle che sono state le consultazioni farsa poi della buona scuola, perché abbiamo visto che ovunque è andato nelle scuole Renzi in realtà ha trovato la contestazione degli studenti, e queste consultazioni sono state appunto una farsa che di fatto vedeva le linee guida assolutamente già ben definite e che appunto voleva dare una così una parvenza di confronto, di democraticità a questa riforma che in realtà ne aveva ben poco. Prosegue l'Huffington Post facendo notare che questa riforma era stata insomma in un certo modo già annunciata dalle varie visite del Premier Renzi alle inaugurazioni degli anni accademici degli Atenei italiani. Ne abbiamo avuto un esempio qua a Torino, ma lo stesso è accaduto a Bologna e anche da altre parti, dove Renzi appunto aveva in un certo senso lasciato intendere che il suo governo vorrà mettere mano anche all'università. Entrando un po' nel merito di quelle che sembrano essere appunto le proposte del governo a proposito dell'università, si parla innanzitutto, stando alle parole della segretaria del PD Puglisi, di ridurre la burocrazia, che a loro dire sarebbe il vero problema degli Atenei. Beh, insomma, forse varrebbe la pena far notare che Sicuramente può essere un problema, ma che le nostre università sono afflitte anche da ben altri problemi, in primis insomma dai tagli sciagurati e scellerati che sono stati fatti in questi anni, che hanno lasciato appunto i fondi per l'università a secco, da strutture assolutamente inadeguate, da una didattica spesso poco interessante, confusa, con le università appunto ridotte a un esamificio in cui si entra, si segue la propria, si prepara l'esame e basta. Dall'altro lato, quella che l'Huffington Post definisce la vera novità è però una sorta di Jobs Act traslato sull'università, che trasformi la miriade di forme contrattuali attuali per assistenti, ricercatori, collaboratori eccetera in un contratto unico sul modello delle tutele crescenti che appunto ha già caratterizzato il Jobs Act, che secondo il governo dovrebbe garantire lo sblocco in entrata dell'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che all'oggi appunto sono costretti insomma a districarsi tra anni e anni di collaborazioni rigorosamente gratuite. Questo è uno dei punti cardine anche del Jobs Act che tanto piace a Renzi: collaborazioni, borse di studio prima di poter arrivare a una qualche forma di lavoro appunto innanzitutto retribuito e con qualche garanzia di non trovarsi sballottato da una parte all'altra ogni due mesi. Quindi insomma queste sono un po' le indiscrezioni che siamo riusciti a trovare su questa ventilata riforma dell'università. Appunto si parla a fine maggio si parla già per questa primavera di una serie di giornate di confronti, immaginiamo con chi, insomma con i baroni e con i rettori degli atenei, che spesso in questi ultimi anni hanno dato prova di essere molto lontani in realtà dalle esigenze, dai bisogni reali delle nostre università, per poi formulare appunto in autunno la proposta iniziale. L'Huffington Post chiude dicendo che non ci sono timori per l'inasprirsi dell'autunno, perché dichiara appunto questa portavoce del governo: si partirà con una lunga fase di ascolto e l'impianto finale terrà conto di quanto sarà emerso, costruirà una serie di norme che serviranno una volta per tutte a dare un impulso agli atenei italiani. Beh, la formuletta è la stessa che si sente ripetere da anni, e di fatto poi se il peggioramento appunto dei nostri atenei è andato insomma incrementando di anno in anno. Sul nessun timore per l'inasprirsi dell'autunno, noi invece ci auguriamo ben altro, e anzi siamo pronti a dire che se davvero verrà, dopo la buona scuola verrà lanciata la buona università, saremo pronti insomma a far sapere al governo che delle sue riforme, insomma nonostante queste consultazioni farsa, avremo insomma un po' di cose da dire contro i provvedimenti del governo Renzi. Quindi insomma staremo a vedere, però mi sembrava interessante intanto iniziare a commentare brevemente questa notizia. Adesso facciamo una pausa musicale, poi interrompiamo un attimo la rassegna stampa per andare a metterci in collegamento rispetto all'Assemblea Nazionale di Studout, poi riprendiamo più tardi invece con alcune notizie più locali. My animated hands that I got from the jeans of my island native fam. I could never cannot be. I'm here to make them scream like a Hitchcock game. Whether analog, dig it all, shit is all the same. An American tradition, a narrative for fiction, a Hamilton for tickets, the public is addicted. Just think for a second how much we've been conditioned to root for the doughboys, the old dogs, the bishops. Sided with them villains in spite of all the heated. He says she gotta have it, she says she didn't need it. And even if she see it, she will probably not believe it. If it ain't being projected in a widescreen theater, if it spins on a reel, it's gotta be real. For real in real life, just remind us of film. And now you saying something's like a movie when it's real. Like a film's much realer than anything you feel in a cinema traveling. In a cinema traveling. In a cinema traveling. In a cinema traveling. In a cinema traveling. In a cinema traveling. In a cinema traveling. They try to say we bad kids with the start, grandchildren of Marx and Coca-Cola, yeah, quoting Godard. And you saying that everything is cinema since the moving pictures in the center of your living room telling you shit like you'll never be shit. Walk away from all your dreams, spark up, drop a lighter on a trail of gasoline leading back to the vehicle you crashed before you came, never looking back, cut, boom, end of scene. We've been gunning for that hundred and some change. The flicks and the flickering flames have been going the same way, doing battle with the powers that be. That'll be no longer in position when the power's getting seized. So cameras we got, redirected from the floor. I directed for my people, Lino Rocco with the horn. When the brother yelled action, it wasn't just for his actors. He wanted to see the masses get their asses out the door. Get up. My marvelous marksmanship is sharp, shit is hard, but we make it look not, we are tours. The Godfather poster on the wall, 14, with a movie in my head. Writing's the next thing, so we shot y'all, 35 millimeter rock stars. How about some hardcore, senior to your sophomores, flyer than a Concorde, landing on your concourse, rolling with the Vanguard, burning at your art house. If you're spinning on a reel, it's gotta be real, but real in real life, just remind you of film. And now you saying something's like a movie when it's real. Blade running like a samurai, killing himself in the cinema metropolis. In the cinema metropolis. In the cinema metropolis. In the cinema metropolis. In the cinema metropolis. In the cinema metropolis. In the cinema metropolis. Yeah. Dead presidents. Stickman, M1, you know what we want, you know what we need, we gotta organize and make it happen, you heard? LGO, let's go get it. Justice and freedom, what you want, let's get organized, we won't survive if we don't, let's get organized, power in numbers, come on, let's get organized, don't just be singing the song, let's get organized. Justice and freedom, what you want, let's get organized. We won't survive if we don't, let's get organized. Power in numbers, come on, let's get organized. Don't just be singing the song, let's get organized. I'm about my freedom from the cradle to the grave. You got me fucked up, you think I'm just gonna be your slave. I've been made a freedom fighter, molded by my conditions. Take strength, organization, spirit and vision. And take political education to stop imperialism. Most of all, it take the people to keep the mission up late, strategizing in the project kitchen, and we ain't got a pot to piss in. Man, listen, nothing to lose but my chains and everything to gain. Malcolm X ain't die in vain. International solidarity, just for total clarity. The worldwide payback for everything that they jack from me. Ride or collide, unify, not divide. Pick a side, stick your fist in the sky, and get high off the people. Let's celebrate the end of oppression, and laugh at the results of the presidential election. And dance on the grave of the pigs with no question. And keep your Smith and Wesson for protection from the Western. Uncivilization situation we facing. Soldiers better get on your boots and start lacing. Justice and freedom, what you want, let's get organized. We won't survive if we don't, let's get organized. Power in numbers, come on, let's get organized. Don't just be singing the song, let's get organized. Justice and freedom, what you want, let's get organized. We won't survive if we don't, let's get organized. Power in numbers, come on, let's get organized. Don't just be singing the song, let's get organized. Sick of these crooked police, sick of these politicians, sick of these schools and these churches, sick of their whole system. Instead of education, they building new prisons. This generation fed up, seeking a new vision, waiting for healthcare, you dying on the stretcher. They took away the welfare, no food, clothes, and shelter. Got these teens in wheelchairs, military veterans, but the people waking up to resist this oppression. Everywhere we go, we travel around the globe, and it's the same struggle. The working class, truth be told, be the ones that suffer the top of the food chain. Rich, white, fat bosses flossing with 90% of the world's resources. It's obvious, even though that's not what Obama says. Too many broken promises. We raising up the consciousness in the community to fight the real enemy. From Tennessee to Italy, we need solidarity. Vote. We didn't end up on the bottom from the boat. Nope. We came in chains on the bottom of the boat. Nope. They'll never free us. They elections is a joke. Only way we break the chains of our repression is revolt. So. Allora 11:41 torniamo in diretta con Parole Ribelli. Come annunciavo poco fa, andiamo a farci raccontare dell'ultima assemblea nazionale di Studout. Lo facciamo con Stefano del collettivo Studenti Autoorganizzati di Torino, che è appunto di ritorno da Bologna. Ciao Stefano, benvenuto su queste frequenze. Ciao a tutti. Senti, questo fine settimana si è svolta appunto un'assemblea nazionale della rete di Studout, in cui insomma c'è stato spazio sia un po' per le valutazioni dei mesi che vi siete lasciati alle spalle, in particolare con le mobilitazioni contro la buona scuola che hanno interessato un po' tutte le maggiori città italiane, ma poi avete anche guardato avanti ai mesi che vengono, in particolare alla pratica ormai che va avanti da qualche anno del boicottaggio delle prove Invalsi, ma non solo. Ti chiederei magari di partire dalla prima parte, quindi su come si è svolta l'assemblea, sì. Su come era strutturata, anche insomma come è andata la partecipazione, quali sono le valutazioni che avete fatto guardando un po' a quest'ultimo autunno. Ma allora, l'assemblea di apertura era partecipativa, erano presenti un sacco di città italiane, dalle metropoli più grandi come Roma e Milano, fino ad arrivare alle nuove realtà presenti in Italia. Negli interventi di apertura si è analizzato quelli che sono stati i vari percorsi appunto svolti e portati avanti dalle varie città presenti. È emerso come gli studenti non vedono nella riforma di Renzi, purtroppo, una vera minaccia contro cui mobilitarsi, ma vedono più come un problema quelle che sono le esigenze reali, come quelli del caro trasporti e dell'edilizia scolastica. Per esempio a Cremona sono stati portati avanti la lotta contro il caro trasporti, contro il caro con autoriduzioni appunto del biglietto del treno, oppure in altre città contro il servizio pubblico cittadino. Invece nei tavoli successivi a quello di apertura abbiamo visto come Expo il modello che propone e le prove Invalsi siano il chiaro esempio di quelle che sono le politiche di aziendalizzazione privatizzazione portati avanti dal governo Renzi. Appunto sono intervenuti i compagni milanesi spiegandoci un po' come viene vista anche a Milano, come tira l'aria appunto di Expo. Abbiamo lanciato quindi per questo delle date di mobilitazione nazionali. Che ci vedranno il 30 aprile con azioni dislocate su tutto il territorio italiano a sostegno delle giornate di contestazione contro Expo, ma che ci vedranno comunque appunto inseriti in quella del primo maggio a Milano. Invece per quanto riguarda la lotta contro le Invalsi ci saranno due date nazionali, una del 7 maggio che ci vedrà in tutto il territorio con azioni di rilancio, invece a quella che sarà la data del 12 maggio in cui si è lanciato il boicottaggio annuale appunto dei test. Beh sì, sicuramente, insomma, per quanto riguarda Expo, l'augurio con cui tante realtà si stanno avvicinando alle giornate di maggio, che si riesca a portare in piazza un'opposizione quanto più larga e variegata, quindi sicuramente le scuole saranno un terreno di intervento importante da qui alle prossime settimane, mentre per quanto riguarda le Invalsi, insomma, è un appuntamento che ormai... È un appuntamento annuale che però va comunque evidenziato, perché il governo Renzi poi oltretutto lo vorrà inserire anche nell'esame di maturità, quindi è una lotta che va portata avanti tutti gli anni e costantemente. L'anno scorso abbiamo portato avanti l'idea del boicottaggio direttamente a scuola, quest'anno si vogliono provare nuovi metodi di lotta, appunto, per contrastare le Invalsi. Sì, peraltro, insomma, negli anni scorsi è stata una forma di mobilitazione che ha trovato un consenso anche molto largo, anche tra alcuni insegnanti che hanno deciso, mi sembra, no, in alcune città d'Italia, sì, di appoggiare questa forma di protesta, quindi sicuramente una pratica che va implementata, insomma, nel tempo. Sì. Senti, vai, scusa, continua pure. No, niente, quindi anche le Invalsi possono essere un terreno per poter comunque creare nuove contestazioni al di fuori di quello che è l'autunno caldo o della prima parte dell'anno, quindi certamente non ci fermeremo. Beh sì, rispetto alla buona scuola, comunque c'è da dire che dopo l'autunno, appunto, la riforma non è ancora entrata a pieno regime, quindi sicuro ci sarà, credo, ancora spazio per mobilitarsi anche nei prossimi mesi rispetto a questa questione. Sicuramente. Tra l'altro poco fa commentavamo anche il fatto che sembra che per il prossimo autunno verrà annunciata sulla falsariga della buona scuola anche una riforma degli Atenei, quindi una sorta di buona università, quindi insomma ci auguriamo che la partecipazione e l'opposizione non possano che allargarsi. Va bene Stefano, io ti ringrazio. Grazie, rimando al sito di Studout, dove c'è il report dell'assemblea che entra un po' nel merito dei vari nodi che avete affrontato e che soprattutto rilancia sulle date di mobilitazione, ricordiamo appunto in particolare quella del 12 maggio e poi tutte le iniziative contro l'Expo che andranno ad unirsi anche a molti altri appuntamenti. Ti ringrazio e niente, a risentirci presto. Ciao. Allora, questo insomma per quanto riguarda gli studenti medi che questo fine settimana si sono ritrovati a Bologna, insomma il calendario delle iniziative che hanno lanciato mi sembra bello fitto, quindi insomma saremo a vedere, sicuramente ci sarà modo di ritornare anche su queste mobilitazioni, in particolare contro le Invalsi, a cui abbiamo già dato più volte spazio anche negli scorsi anni, per vedere un po' come andrà quest'anno questa pratica del boicottaggio che da un po' di tempo è stata portata avanti in diverse scuole. Adesso facciamo una pausa musicale e poi proseguiamo con la puntata. Sono cattive notizie da ogni fonte, su ogni fronte, interno, esterno, qua l'inferno, lungo tutto l'orizzonte. Le immagini mi gettano in voragini profonde, con un senso di vertigine che mi confonde. Segnali di disturbo intanto dal centro del potere, continuano a gonfiare il conto di chi fa il loro volere. Armati di un esercito di servi di mestiere, che per due spicci in più, tutti pronti a non voler sapere e non vedere ciò che capita, ciò che succede. Tanto la gente crede a quello che uno gli ripete, fregati dalle ideologie e dalla fede. Per questo ancora insisto e faccio ancora buchi nella rete, e non patteggio e non concedo e non tifo, io sputo rime solo per dire ciò che mi fa schifo, tanto questa mandata quanto quella precedente, un altro giorno, un altro giro di notizie, cattive come sporco, cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle, tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle, porco, cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle, tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Circolo vizioso, broker speaker, siato senza fede, non ci chiedo le stronzate che dite. Un 5 ogni member che mi segue, a colpi di macete nella folla che ammazza e non te lo chiede. Sotto il segno dell'ariete c'ho la testa dura, malato ancora senza cura, prova d'armatura. Non faccio scuola, sputo rime, non state nel mio cuore, porto cattive notizie a chi non le vuole. Benvenuto tra chi muore nei giorni feroci, inizia il conto alla rovescia a partire da 10. Il suono crudo dei miei amici viaggia 10 nodi a lungo un destro alle narici.

picture a poverty-stricken finger twitching on the hairpin trigger and pause. Can't deny my stress. I know better than to blame the wild, wild west. As to rain that I address is a mindset. Bigger the jail, the less serious the crimes get. So the tumbleweed rolls through these empty streets. They shot the sheriff, all we have is the deputy. And he definitely does not want to rock the boat. So we work hard, sharp and gloat to forget we bleed. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. You and the box the plan. Liberate the mind but forgot the land. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. Why you done box the plan? Liberate the land but forgot the man. He bought a range, but his aim's off. Caught a plane, but it ain't take off. JFK straight shot, Great Lakes paying for it. Hate makes the air foggy, SA takes notice, play it safe, same result. So David Blaine get the rainbow, so to y'all, you can rise away to the new realize of papers off. Make a law, take it from. You get out your acres, I've seen the roof rap, then a handout. Pick the arms, Zimbago, better be my own Zimbago. Tell Colin Powell to swallow my bow and arrow and follow that. With his toes and angle to photograph, my ass know power to cover from all of that nasty. All about poverty, playing at all cap. Skin too thick, get a little tin of acne cream. Or Vaseline, you wait till them Somali kids give you a take from that Bruce Wayne alley scene. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. You and them box the plan. Liberate your mind, but forgot the land. Bring out the marching band. Let them play an anthem for a continent. You went and botched the plan. Hey, liberate the mind, but forgot the land. :57, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli dopo la diretta con Stefano sull'Assemblea Nazionale di Studout e dopo un breve stacco musicale riprendiamo con gli approfondimenti, in particolare con un po' di rassegna stampa. Torniamo sul locale, lo facciamo a partire da un articolo di pochi giorni fa uscito domenica sulle pagine online della sezione locale di Repubblica, un articolo a firma di Paolo Griseri che titola "Arriva il campus, gasometri addio". E l'articolo in particolare entra nel merito di uno dei tanti progetti di nuove residenze universitarie che l'amministrazione locale, in particolare quella di Fassino, sbandiera da anni, insomma, all'interno dei grandi progetti di trasformazione della città, un po' sotto il brand di Torino capitale dei giovani e degli studenti. Si tratta appunto di progetti di cui sentiamo parlare da tantissimo tempo, ma che per ora sono sempre rimasti sulla carta, in cui è abbastanza difficile distinguere, insomma, quella che è appunto propaganda e quello che poi saranno le trasformazioni reali che avverranno di qui ai prossimi anni. Ma andiamo appunto a leggere brevemente l'articolo, che appunto parla del fatto che in estate dovrebbero partire le gare di appalto per trasformare l'area dell'ex Italgas di Corso Regina Margherita in residenza appunto per gli universitari. Verranno fatti appunto dei bandi, perché l'area non è di proprietà del comune, quindi i tempi saranno più lunghi, ma ci sono già una serie di nomi che hanno manifestato interesse rispetto alla gestione dell'area, in particolare il gruppo olandese Student Hotel con un fondo di investimento, invece il gruppo torinese Provvisiero. Se e quando il progetto verrà realizzato, si parla di 500 posti per studenti universitari che andranno appunto a sostituire gli attuali gasometri che caratterizzano, insomma, in maniera anche abbastanza visibile l'area da molto tempo, e andranno, insomma, così ad allargare quella che è già l'attuale area universitaria con la palazzina Einaudi e il più recente campus Luigi Einaudi, nell'ottica appunto di creare una sorta di campus allargato con residenze, mense e non solo. Dice l'assessore Lorusso che quella della vocazione universitaria è uno dei punti di forza della trasformazione urbanistica di Torino, e che appunto in cantiere ci sono una decina di nuove sedi da destinare alle abitazioni per studenti, per un totale di 5.000 nuovi posti letto. E questa è appunto la retorica che sentiamo dire da anni e che si scontra invece poi con la realtà dei fatti, che innanzitutto vede un diritto allo studio martoriato dai tagli a livello regionale e anche torinese. È stato insomma parzialmente rimpinguato dall'amministrazione Chiamparino al suo nuovo mandato, ma di fatto si tratta di una situazione ancora disastrosa, e questo è un primo dato di fatto con cui le parole dell'amministrazione locale si deve per forza scontrare. Dall'altro, insomma, giusto nei giorni scorsi intervenivamo insomma con un articolo su questa questione delle residenze universitarie, andando un po' ad analizzare quelli che sono poi gli effetti e le trasformazioni che questi progetti comporterebbero, e che in parte abbiamo già visto all'opera e che rientrano un po' in quella gestione del territorio torinese che alcuni hanno definito del sistema Torino, in cui si intrecciano appunto l'indebitamento, progetti speculativi e trasformazioni urbane. Le altre zone che dovrebbero essere interessate da questi progetti sono appunto, oltre a quella di cui parlavamo in corso Regina Margherita, anche quella di corso Farini, sempre nei pressi del campus, la zona di Ponte Mosca su corso Giulio Cesare, l'ex manifattura Tabacchi, l'area Combi tra nei pressi di corso Agnelli, e le ex officine Nebbiolo di via Fiocchetto e via Lombroso. Rispetto al appunto, tornando all'articolo di Repubblica, rispetto alla costruzione di questa nuova residenza, l'amministrazione locale ha specificato che non saranno previste aree commerciali all'interno della nuova residenza, ma che queste comunque verranno costruite poco più in là. E questo ci riporta già a uno dei punti che canalizzavamo, cioè le speculazioni che stanno dietro a queste nuove residenze, che insomma accelerano i processi di gentrification dei quartieri, che portano a trasformazioni molto profonde, che per quanto riguarda ad esempio il quartiere di Vanchiglia abbiamo già visto all'opera appunto con la costruzione del nuovo campus, con l'innalzamento degli affitti che ne è seguito e che non potrà che tornare ad aumentare insomma con questi nuovi progetti. La dinamica un po' che vediamo all'opera in queste trasformazioni è un po' sempre la stessa: la compagnia e l'Intesa San Paolo, che fanno da garante, da cofinanziatrice di tutte praticamente le operazioni che riguardano la nostra città. Lo vedevamo ancora la settimana scorsa rispetto alla questione della cavallerizia e al futuro che l'amministrazione vorrebbe riservarle. La città di Torino, che detiene insomma quasi sempre i grandi immobili interessati da queste trasformazioni, e poi aziende straniere, in particolare londinesi e olandesi, come peraltro viene confermato dall'articolo di Repubblica sulla zona dei gasometri, che cofinanziano i progetti e probabilmente andranno poi anche a gestire le nuove residenze una volta costruite. E dall'altro i grandi nomi delle ditte costruttrici torinesi che si spartiscono un po' gli appalti e i lavori. Quindi questo è un po' lo schema che vediamo ripetersi in maniera abbastanza chiara in tutte le volte. Dall'altro, appunto, già come dicevamo, questo si inserisce in un quadro di dismissione del welfare studentesco, del diritto allo studio, che appunto in parte è stato rifinanziato, ma che secondo la vecchia pratica del dare con una mano e togliere dall'altra viene comunque inficiato da altre parti. Pensiamo ad esempio al nuovo calcolo dell'ISE entrato in vigore quest'anno, che porterà appunto un innalzamento generalizzato dell'ISE e di conseguenza a un'esclusione sempre più ampia da una serie di servizi e di diritti. Di questo ne avevamo anche discusso con i compagni e le compagne di Pisa, sempre su queste frequenze, che appunto sottolineavano come si tratti di una forma appunto di esclusione sempre più ampia da una serie di servizi, tra cui anche quello del diritto allo studio. Quindi insomma questo è un po' lo schema che vediamo ripetersi. Peraltro, appunto, rispetto alle speculazioni, già si parla di nuovi centri commerciali. Sappiamo bene che quello degli studenti, appunto, dall'essere un diritto che veniva garantito con borsi di studio che agevolavano, insomma, l'accesso all'università. Si tratta invece sempre più di attrarre studenti che consumino in questa città e che appunto accelerino una serie di processi di trasformazione dei nostri quartieri. Comunque, insomma, si parla dell'estate per gli appalti, quindi probabilmente nei mesi prossimi sarà possibile scoprire qualcosa di più per quanto riguarda questo progetto specifico sull'area dell'ex Italgas. Insomma, avremo modo anche di tornare a commentare. Per quanto riguarda appunto la riflessione più generale su questa questione delle residenze universitarie, rimando appunto al nostro blog del Collettivo Universitario Autonomo Torino. Tra gli ultimi post c'era appunto questo approfondimento, questa mini inchiesta: nuove residenze universitarie e la morte del diritto allo studio a Torino. Questo è più o meno quanto. Adesso torniamo a un po' di musica, poi riprendiamo con la diretta. Sulla spalla, muovi la testa e ti piace farlo, alzi il volume per il gusto di pomparlo, stringi le tue scarpe, lo specchio è storci il muso, più ti guardano male più tu ti sentirà abuso. Fa strano dirlo, ma è il gusto che si prova con il Walkman a palla sul bus di giorno alla buon'ora, prima di andare a scuola, oppure chi lavora dentro il traffico oggi in auto pompi su con la manopola. Poi c'è l'ectare che sclero se il CD metti a saltare, non sai che usare, analogico digitale non ci importa, la botta ci conforta, staresti tutto il giorno giù in metro con questa botta. È qualche cosa che ti sembra strano, che tiene vivo e sano questo ritmo metropolitano. Ogni suono che diamo resta, muovendo la tua testa, evitiamo solo quelli in cui crediamo. Dietro plasta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante in cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi passa, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca, questo è il suono del mio che se ti prende il controllo. Pompando i muscoli del collo, respiro la città con tutto quello che c'ho attorno. La mia autoradio prevedeva che il ritorno trasforma la normalità, il silenzio un brutto sogno. Alzo il volume a dei livelli imbarazzanti, il blaster accompagna il breaker che blocca i passanti. Il cerchio crea quella folla che riscalda il domani, apprezzando i quattro quarti, windmill senza mani. Bacia bambata, cuffiette nelle orecchie alla fermata, ci credono la gioventù bruciata. Doppiamo rime che si plasmano col tempo che si affetta, giuro che poi ti faccio una cassetta, in modo che la tua radio possa assorbire ogni singolo solco e tutto quello che ho da dire. Su di una spanna, il suono originale non si affanna, si imprime su di un vetro che si affanna. Dietro plasta, dimmi se ti basta, dimmi se ci credi in un piatto rullante in cassa, dimmi se ti passa, dimmi se è una moda oppure credi in questa cosa. La musica è la mia migliore droga e mai mi basta, sta febbre non mi passa, il rap è la mia via d'uscita, è questo che ci salva. Dimmi se ti garba, pompa sul volume di ogni suono che ti spacca, questo è il suono del mio ghetto blast. Ciccio stocca, body shock è il nostro stereo marcio, pompiamo questo suono e lo espandiamo a lungo raggio, sin dai giorni di maggio in cui ti senti preso meglio. Pompiamo il volume anche in inverno in mezzo al freddo. Non ho paura di restare solo e sordo, l'hip hop è la mia tipa e più la tocco e più la invoglio. Io e la mia musica, non ci frega un cazzo di chi giudica, fanculo a sti predicatori in tunica. E la domenica mattina quando la casa è ferma, faccio vibrare i bassi col vicino che bestemmia. Tutto si spegne, lo sento, scrivo in vento, è l'hip hop che sta ingoiando la mia vita dal di dentro. È solo musica, chi la crede un pericolo, ha trovato sto veicolo per rendersi ridicolo. Se guardo indietro la vita e quella gente che ho perso, un prop solo a me stesso, schiaccio play poi prova. Ok, il volume ci aiuta in sto posto strano, abbiamo perso ogni contatto umano, man mano che avanziamo si delinea la linea che separa l'orizzonte, l'Italia dalla Cina. E più senti sto ritmo e più vorresti evadere, credi che altrove il paradiso sia palpabile, ma il paradiso si nasconde in queste pagine. L'hip hop non a caso sta qui per colmare l'argine. Ringrazio infine chi mi ha spinto in questa cosa fondamentale, le bosse, la rappa dopa. 95 resta l'anno del battesimo, il suono che accompagna le mie rime ancora il medesimo. E se ce n'è di gente che considera automatico non smollare il colpo al primo ostacolo, tracciando linee situazione psicopatica. Il clima da guerra in prima linea, però in pratica di 10-9 stanno inchietamine. Se già prima era tragica, ora sfiora il dramma. Ed è gamma cromatica che oscura ogni programma. E se l'aria si infiamma, sono onesti d'amianto. Un occhio che si appanna anche se ancora non ha pianto. Ed è un vetro infranto in cui guardi attraverso. Impronte sul cemento anche se fai il percorso inverso. E anche se ho perso le occasioni più nitide, stassi sulle frasi verso basi più solide. Ma siamo alle soliche, qualcosa è poco chiaro. Come nato per repare adesso pseudo metallaro, ovvero milioni d'euro per un flop. Regina dell'hip hop che adesso in radio spinge i dischi delle lollipop. Zero gradi stop, qua c'è un difetto. Sta merda riempie armadio, svuota sogni nel cassetto. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Non c'è niente di peggio che credere al punteggio. Beh adesso è già un lusso andare a chiudere il pareggio. Se spesso indietreggio fino al punto di partenza. Perché prosegue il viaggio ma in corsia d'emergenza. Ed è la consistenza che distingue sto ambiente. Finti dreadlock sopra calvizie incipiente. Ma è principalmente una questione di presenza. Ed è già più che eloquente l'inversione di tendenze. Ed ora che manca assenza di trame più estreme. Volevi conti in banca e stai alla banca del seme. A volte conviene, a volte è un'illusione. Fra canzoni disinvolte che durano una stagione. Allora la situazione si commenta da sola. È una sola, è l'estinzione della vecchia scuola. Ci si consola sapendo che sappiamo. Qualcuno parla piano, io vado più lontano. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tu. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne bevo tutte. Bueno, complimenti, almeno vedo del coraggio. E so che ce ne va un casino fra Sanremo e il primo maggio. Un viaggio clandestino se il primo dei tuoi pensieri è per l'ingaggio più vicino. Una cifra da 5 seri, dai. Siamo sinceri, è per questo che lo facciamo. Anche se il resto dell'idea che è più onesto sia un ciarlatano. Riconosciamo che ha finito sta vergogna. E sappiamo che il più pulito garantito c'ha la rogna. E poi ci domandiamo se bisogna aver paura di chi sogna un posto a tavola ma mangia spazzatura. Di chi su sta cultura c'ha soltanto speculato. Di chi va addirittura da MTV e fa l'impegnato. Di chi si è accontentato solo di mezza misura. Eppure se smontato il suo logo è una montatura. Di chi su sta andatura rallente. Sì, perché ogni cosa si cura qui. Ce ne si inventa tre. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Adesso vuoi capire se puoi credere a qualcuno. C'è fame di potere ma c'è chi resta digiuno. Uno per vedere le tue verità distrutte. C'è sete di sapere ma non me ne devo tutte. Ore 12:15 sulle note di Chaos One. Ci avviamo anche per questa settimana verso gli ultimi minuti a disposizione di Parole Ribelli. Prima di chiudere, come avevo preannunciato in apertura, volevo ancora farvi sentire la breve video intervista che è stata realizzata con Daniele, il nostro compagno arrestato durante il corteo contro il comizio fascio leghista che si teneva in piazza Solferino alla presenza della Lega Nord, con anche il segretario Salvini e vari esponenti della galassia neofascista da Casa Pound a Fratelli d'Italia. Daniele appunto è stato arrestato durante le violente cariche in via 20 settembre, insomma le immagini sono circolate ampiamente nelle ore successive. Quello su cui ci interessava tornare era anche l'importanza di essere in piazza quel giorno per costruire appunto un'opposizione reale ai tentativi della Lega Nord di ritagliarsi uno spazio politico e di accreditarsi come una presunta opposizione al governo attuale, e questo è appunto un po' quello che ci ha raccontato Daniele, del perché appunto nonostante l'epilogo che ha avuto la sua partecipazione in quella piazza, fosse importante esserci e sarà importante esserci anche in futuro, appunto di praticare antifascismo e antirazzismo che siano pratica quotidiana e pratica di lotta, e non solo insomma una retorica pronta poi a dare spazio a tutti in nome della libertà di espressione, come tanto piace fare anche a una certa sinistra e sicuramente anche alla nostra amministrazione locale, che aveva subito espresso solidarietà alla Lega Nord per il danneggiamento della sua sede, che non si è nemmeno sognata insomma di levare una voce contro l'organizzazione di quel comizio. Quindi vi passo questa breve intervista con Daniele, con la auguri ovviamente di riaverlo al più presto del tutto libero anche dagli arresti domiciliari. Per ora insomma rinnoviamo l'abbraccio e il saluto. Dei dati più eclatanti che possiamo vedere in questo momento di questa politica veramente che si basa sul nulla se non sul mero solito populismo di dare la colpa all'ultimo arrivato, cosa che peraltro è stata fatta per decenni nei confronti di quelle stesse persone che adesso si scagliano contro gli immigrati del Nord Africa o dell'Africa in generale. Penso che un dato ulteriore per scendere in piazza quel giorno lì fosse proprio anche l'alleanza di Salvini e della Lega Nord con chi si definisce fascista del terzo millennio, come Casa Pound, come chi ripropone ancora al giorno d'oggi ideali che per 20 anni hanno messo in ginocchio questo paese, non solo da un punto di vista economico, sociale, ma anche da un punto di vista proprio culturale e di capacità delle persone di stare insieme. Io personalmente ho preso parte in prima persona al corteo che ha provato ad avvicinarsi il più possibile, per contestare quelle che sono appunto le idee di Salvini, e sicuramente in qualche modo abbiamo scontato anche questa determinazione. Nel mio caso particolare, venendo fermato proprio durante le cariche delle forze dell'ordine e poi successivamente arrestato, abbiamo scontato quella che era la nostra determinazione e la nostra tenacia. Sicuramente penso che in un momento come questo in particolare non basti avere delle opinioni politiche, sociali, non basti dire io non sono d'accordo, io mi oppongo. In questo momento storico in particolare occorre opporsi, occorre fare, occorre non fermarsi a quella che è l'opinione, come spesso invece è il rischio che fanno tante componenti di quella che si definisce la sinistra di oggigiorno, se vogliamo. In particolare poi nel tema dell'antifascismo, nel tema dell'antirazzismo. Io quel giorno in particolare ho scontato il fatto di passare dall'opinione ai fatti, e non solo io, come tanti fanno ultimamente in questo paese. Detto ciò, ovviamente io non auguro a nessuno di passare l'esperienza che ho avuto io, non l'auguro a nessuno, non voglio ripeterla, non penso che sia una stella al valore, né tantomeno penso che bisogni per forza arrivare a questo punto, a quel punto lì. D'altro canto però una cosa che bisogna mettere in conto, una cosa che bisogna in qualche modo considerare, tenere presente, è che se succede, come esattamente come in piazza, andiamo a dire quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri ideali a testa alta, esattamente allo stesso modo bisogna affrontare quella che è un'esperienza di quel tipo lì, e quindi senza preoccuparsi, sapendo oltretutto, ricordandosi sempre, non solo nei momenti magari un pochino più di difficoltà personale, ma anche poi sentendo quella che è la reale solidarietà che ti viene espressa anche da fuori, il fatto di non sentirsi mai solo neanche in quel momento lì sicuramente aiuta ad affrontare quell'esperienza in modo, per quanto sia possibile, sereno e determinato. Allora, queste erano le parole di Daniele, l'intervista insomma la trovate facilmente su YouTube. Adesso vi lascio ancora un pezzo musicale, poi in chiusura andiamo a ricordare come sempre qualche appuntamento.

loro mi salvano, molti mi scrutano, mi chiedo quanti di loro veramente vedono, che loro si credono, ma non lo sappiamo, lo facciamo, lo incarniamo, lo portiamo negli occhi a testa alta quando camminiamo, giorno per giorno, questo mi salva, questo mi eleva, questo risponde alla mia domanda, mi solleva dall'asfalto dove non c'è via, un magnateste che magnateste in teste ma non la mia. A testa alta io vivo io, ti guardo e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io, cammino io, se ti scontro non discuto, io ti sfido zio. A testa alta io vivo io, ti guardo e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io, cammino io, se ti scontro non discuto, io ti sfido zio. A testa alta io vivo io, ti guardo e rido io, so chi sono io. A testa alta io vivo io. ...12.32 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Mi preparo anche per questa settimana alla conclusione di Parole Ribelli. Prima di salutarvi, come sempre, ricordo qualche appuntamento. In realtà, per i prossimi giorni l'agenda di Blackout è al momento abbastanza scarna, quindi vi invitiamo anche a segnalare eventuali appuntamenti al 346-667-3263. In ogni caso ricordo e confermo la cena di questa sera all'asilo occupato di via Alessandria 12 dalle ore 21, cena benefit detenuti, mentre sempre per quanto riguarda le iniziative della radio, questo venerdì continua l'appuntamento con Pulp, la polpa dei libri, la presentazione appunto di libri che sta proseguendo ormai da diverse settimane. Questo venerdì l'appuntamento sarà con Electroshock, un libro a cura del collettivo antipsichiatrico Artaud, edizioni sensibili alla foglie, che tratta il tema della storia delle terapie elettroconvulsive e racconti di chi le ha vissute. L'appuntamento è qui alla radio, quindi via Cecchi 21 / A, a partire dalle ore 21. Questo è più o meno quanto per questa settimana. Io vi saluto. Per quanto riguarda Parole Ribelli, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre dalle 10.45 circa alle 12.45. L'invito è ovviamente quello di rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tra pochi minuti ci sarà il GR, a seguire l'appuntamento con Cattivi Pensieri. Quindi un augurio di buona giornata e di buon ascolto da Francesca. Ci risentiamo martedì prossimo. Vi lascio ancora a un pezzo musicale in attesa del GR. Buon ascolto.